Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Come cercare allora Mariangela, la bella sessantenne amante degli angeli, addentrandoci nel mirabolante ma anche ambiguo universo di Facebook, un mondo virtuale che permette contatti altrimenti impossibili, che allevia solitudini e fa sbocciare amicizie e amori, dove spesso però le cose non sono come appaiono e non sai mai veramente con chi stai chattando, dove può capitare anche che dietro le sembianze di un interlocutore gentile può nascondersi il mostro. Sì, vabbè, se c'hai 4 anni, t'ha lasciato solo davanti a un computer e vedi uno vestito da cappuccetto rosso invece è il lupo cattivo, va bene, ok, siamo d'accordo, ma è questa la maniera di definire quella che è la più forte cifra della comunicazione fra esseri umani nella contemporaneità? Questo è uno stralcio preso da una TV di servizio pubblico, un programma di grande affezione, chi l'ha visto, su Rai 3, dedicato da decenni, me ne occupai tantissimo tempo fa quando ancora parlavo di televisione, di persone scomparse. Un programma che ha un suo perché, un programma che piace molto ai giovani, agli anziani, tutto, dà molto piacere vedere questa ricerca a tempo reale di persone che sono scomparse, se ne sono volute andare o per qualunque maniera non ci sono più. Oggi sto peggio di ieri, ve lo dico in partenza, e farò di tutto. Questo rumorino che sentirete è l'inalatore con il quale cercherò di supportare la mia voce. Che devo farci? Ecco, tornando a questo punto, a un certo punto ieri è apparso qualcosa che ci fa riflettere in contemporaneità con l'annuncio di un altro evento. Vorrei mettere questi due episodi in collisione tra loro e interrogarmi con il pubblico quale sia ancora oggi il senso della privatezza, del proprio privato. Cosa significa il privato? Il privato, a seconda di questo signore, significa qualcosa che permette, nascondendolo, velandolo, mistificandolo, nei social network, cioè nei luoghi più usati per interconnettersi fra persone, di creare situazioni ambigue. Può essere senz'altro vero, è senz'altro vero, in molti casi è vero. D'altro canto, la Bibbia di tutti i dizionari, che è l'Oxford Dictionary, che è quello che viene compilato sulle parole che hanno una maggior occorrenza, soprattutto anche guardando in rete, hanno un algoritmo perfettissimo che scandaglia la rete, dice quali sono le parole che diventeranno normali, che entreranno nell'uso comune, che sono quelle che oggi si usano di più in rete. Beh, quella che più di tutte è stata usata è selfie. Selfie cosa significa? Selfie significa autoritratto, più o meno, non è proprio esattamente il termine quello, è la foto che si fa di se stessi con uno smartphone, con un tablet, per metterla immediatamente in condivisione attraverso un social network. Voi pensate che selfie è aumentato in questo ultimo anno del 17.000% nell'uso che viene fatto, infatti se si va a guardare su un motore di ricerca, se si cerca selfie, soprattutto nelle aree di Instagram, che sono questi sistemi di elaborazione delle foto automatiche, mettono dei filtri, quindi qualunque foto fatta come ciò fega diventa improvvisamente una foto fantastica, meravigliosa, crea ambiente, crea personalità. Le persone amano moltissimo, quindi, una volta entrate in contatto con l'area di condivisione della rete, fare foto di se stessi e metterle in condivisione. Ci sono varie maniere per farsi un selfie, visto che dovete abituarvi a questo termine. Può essere fatto semplicemente con la soggettiva del proprio smartphone, può essere fatto in una versione lievemente più raffinata davanti a uno specchio, uno fotografa lo specchio e si vede, quindi entra in gioco anche l'oggetto che ci fotografo. È importante perché può andare da una macchina fotografica reflex, se uno si vuole dare l'impressione di essere un grande fotografo professionista, quindi c'è la signora o il signore appostato nella sua cameretta, disordinata al punto giusto, ad arte, aggeggiata come se fosse un luogo bohemien, un luogo di delizie innominabili o un luogo di normale quiete familiare, e si fa la foto facendo vedere l'obiettivone della macchina fotografica, o se no semplicemente facendo vedere lo smartphone, e la foto si mette in circolazione. E questo tipo di operazione ha conquistato la massima diffusione in rete. Beh, voi, se vi dico la parola autoscatto, cosa pensate? Un secondo dipende dalla vostra qualità anagrafica. Qualcuno potrebbe pensare alle prime Polaroid, le macchine che permettevano appunto di fare delle foto che si sviluppavano all'istante, quindi non si passava per la trafila del fotografo che le sviluppava e quindi si poteva fare qualsiasi tipo di foto, e quindi con la Polaroid si facevano le foto che uno voleva mantenere nella propria sfera privata, che non voleva far vedere ad altre persone, che non portava a sviluppare, quindi faceva le foto di se stesso, a volte anche di momenti innominabile. Oppure l'autoscatto era quel congegno che si usava temporizzante sulla macchina fotografica molla, che permetteva di fare quelle squallide foto di famiglia o di amici di fronte a un monumento, di fronte a un paesaggio, si faceva scattare l'autoscatto. Oppure, nella più terrificante delle versioni, autoscatto era il titolo di una rivistaccia che circolava negli anni Ottanta, dove i primi porcelli ante-internet mettevano le loro foto zozze per fare scambi di coppie, scambi di favori e cose del genere. Claudio, buongiorno. Buongiorno a lei, non seguo da tanto e mi trovo spesso e volentieri d'accordo con lei. Mi parli del selfie? Prego? Parli del selfie. Se, il problema è che io frequento i centri anziani, sono un 67enne, per cui spesso e volentieri mi parlano di Facebook, perché loro vanno, perché i nipoti li spingono ad andare su Facebook. E siccome insegno un po' di informatica a queste persone, gli spiego alcune cose, che quando mettono le fotografie dei loro nipotini piccoli, perché magari gli fa figo, quelle fotografie non andranno più via, perché quando una fotografia è in rete non va più via. I modi per tenerle sui singoli computer ce ne sono a bizzeffe. Quindi lei insegna alle persone che ormai non appartengono più a una non possibilità. Non sono nativi digitali. Sono gente che adopera il computer pensando che gli risolve tutti i problemi. Non è così. Comunque serve loro per passare il tempo. Si può passare molto meglio avendo degli scambi personali nei centri anziani, per esempio, dove spesso e volentieri nascono simpatie e antipatie, dove hai più solidarietà che non su Facebook. Comunque, ecco, lei sta parlando di un'area dell'umanità che viene lambita comunque da quelle che noi chiamiamo le tendenze delineate dal dizionario di Oxford, che interessano più però le generazioni, non dico necessariamente giovanissime, anche se il selfie fa parte giovanissima, ma generazioni, diciamo, che mediamente fanno un uso sociale, a volte compulsivo, a volte anche di soddisfazione, questi mezzi. Ma volevo tornare, passando appunto dal selfie, alla ragione per cui questa mattina ho messo assieme queste due eventualità: la possibilità di avere l'estremo piacere, l'estrema lussuria, l'estrema vanagloria del narcisismo esasperato, che per me non è una colpa, mettendo la propria foto in internet, che ha un tal successo che il dizionario di Oxford la certifica come la parola che corrisponde all'azione più frequente in rete, è quello che è accaduto ieri invece a chi l'ha visto. Ha preso sempre più corpo l'ipotesi che la scomparsa di Mariangela debba averci a che fare con il fatto che la donna ultimamente navigava furiosamente su un altro tipo di onde, quelle invisibili e impalpabili di Facebook, onde virtuali che possono però diventare più pericolose delle onde gelide del fiume Olio. Lei ogni minuto che... Devo dire che questo fantastico speech di fronte a una paginata di Facebook di un amico di Facebook, che poi sentirete chi sia, di una persona scomparsa, mi fa pensare che questo signore sia fra gli allievi di Claudio. Questa è una versione vetero che vede la rete come questa sorta di luogo pieno di un'infinità di insidie. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, Luca. Ci stiamo arrampicando un po' sugli specchi, però Andrea Rossetti mi aiuterà a fine a dare una conclusione che abbia un senso e un'importanza a queste due cose messe assieme. Ricordo che Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto dell'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Quindi l'enciclopedia di Oxford dice che selfie, cioè le persone che si fanno delle foto, quindi mettono in circolo la loro immagine il più possibile, amplificandola, sentendosi da questo confortati, corroborati e insigniti di esistenza, lo stesso giorno a chi l'ha visto nella televisione questo signore fa questa spaventosa lettura di internet puntando il dito contro una persona che aveva l'unico torto di essere amico di Facebook, di una persona scomparsa. Sì, è un caso davvero interessante quello che questo qui di chi l'ha visto, no? Perché in realtà questa persona ha messo volontariamente in un luogo pubblico alcuni suoi dati, la sua fotografia. Questa fotografia viene ripresa da una trasmissione. Non nemmeno una foto, era un avatar, questo signore di quale sentiremo. Aveva una foto lievemente inquietante. Che permetteva di riconoscerlo, sì. Giusto, che permetteva di riconoscerlo, perché era questo il punto. Sì, c'era la sua mail, questo. Come dice lui, la sua mail col suo nome, esatto, e cognome. Quindi la sua figura, cioè le sue foto, i suoi dati che lui aveva messi pubblicamente in rete, vengono però contestualizzati in un ambito in cui viene gettata una cattiva luce su di lui. Viene a mancare un concetto fondamentale della tutela che noi abbiamo sui nostri dati, che è l'autodeterminazione informativa, ossia il fatto che io renda pubblici i miei dati non vuol dire che di questi dati chiunque possa fare l'uso che vuole. Ecco, sentiamo un attimo cosa è successo, così spieghiamo meglio. A un certo punto una persona è scomparsa in circostanze probabilmente misteriose, si va a cercare tracce della sua scomparsa navigando nel profilo Facebook di questa persona, si va a individuare la persona che più apparentemente, secondo questa lettura abbastanza folcloristica, diciamo, quello che sembra che avere tratti più ambigui, cioè l'unico che invece della sua faccia mette la faccia di una sorta di essere di fantasy, quindi ha tutte le caratteristiche di essere un possibile personaggio sospetto. Vi avevamo parlato del conte furbetto, personaggio singolare ed inquietante. Inquietante, infatti io dalla bacheca, magari una persona migliore di me, ma io dalla bacheca, guardando la bacheca, fa paura, perché dice: notte a tutti, andate a dormire, cazzo, arrabbiatissimo, no? Poi dice: il conte furbetto sempre mette un post sotto dove dice: e poi pensi, lei è la mia donna, invecchierò con lei, ma che non sei altro. Cioè, questo è il conte furbetto che parla alla sua compagna. Bene, siamo contenti. Cioè, voglio dire, ha la bacheca piena di queste cose. E non saranno fatti suoi. Se questa signora vedere la mia bacheca uno di questi giorni, può vedere variamente me con la faccia cambiata da zombie sotto Halloween, me steso su un tavolo che gioca a fare il morto, me con una motosega in mano, ma le metto tranquillamente. Questo non vuol dire che io necessariamente abbia di queste pulsioni o faccia scomparire le persone tagliandole a pezzi. Tra un istante continuiamo, è interessante. Melog, cronache meridiane. Ci stiamo destreggiando sul filo dell'equilibrista, del funambolo, su una ambiguità su cui vorremmo riflettere. Da una parte la rete celebra selfie come la parola più usata, che corrisponde a farsi una foto con lo smartphone e diffonderla e quindi dare la massima libertà di espansione alla propria foto. D'altra parte, in una TV generalista viene evocato il conte furbetto, un signore che ha avuto il solo torto di, invece di mettere la sua bella foto sorridente davanti allo specchio con la cameretta rassicurante, o davanti al tramonto, dei suoi piedi alla spiaggia o su in montagna con la stella alpina, ha messo una foto un po' inquietante presa da una rivista di fantasy. Ma sarà un suo diritto? Ha diritto il conte furbetto di mettere quello che vuole su Facebook senza che nessuno lo consideri sospetto? Andrea Rossetti. Ma sì, ovviamente ha tutto il diritto di farlo, ha tutto il diritto dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista culturale. Insomma, siamo in Italia, credo che più o meno tutti abbiano letto Pirandello, sappiamo benissimo che quando noi appariamo in società inevitabilmente indossiamo una maschera, perché senza maschere non possiamo presentarci. Questa possibilità di mascherarci ci è offerta in maniera moltiplicata da contesti come quelli dei social network, però è una cosa che facciamo sempre. Insomma, io sono Andrea Rossetti il professore per i miei studenti, sono Andrea Rossetti il compagno per la mia fidanzata, voglio dire, e non dico che siamo persone diverse, però oggettivamente le maschere che indossiamo sono diverse a seconda del contesto. Questo non vuol dire però che quando le maschere siano pubbliche, per tornare al caso di Facebook, possono i miei dati essere presi e decontestualizzati, portati in un contesto che non è quello che io avevo previsto. E infatti, Andrea, dopo un po' telefona il conte furbetto. Allora, io sono in chiusura, ma mi dicono che forse sta telefonando il conte furbetto. Buonasera. Buonasera. Senta, io sono il conte furbetto. È proprio lei, cioè del caso di Mariangela? Sì, ho visto la mia pagina, quindi sono io. Con quale motivo vi permettete a parlare di me senza permesso? Cioè non possiamo parlare di lei, guardi che lei è legato al nome di una... No, perché a me qua mi danno del mostro, senza che io conosca la persona. Però le voglio chiedere questo, sa per caso qualche cosa di Mariangela? Perché sennò domani vado in casa e me la denuncio per diffamazione. Mi scusi? Va bene? Guardi, voglio le sue scuse subito. No, guardi, il suo nome è legato a un caso di scomparsa di una donna che si chiama Mariangela, che chattava con lei. Volevamo solo sapere se per caso ha notizie di Mariangela. Se lei non ha notizie. Il conte furbetto chiama, l'hanno chiamato gli amici, hanno detto: guarda che stanno facendo vedere in televisione il tuo profilo Facebook. Ma il conte furbetto ha un numero limitato di amici, sono le persone con cui si incontra su Facebook, si scambia le frasi, fa insomma quello che piffero gli va. Se non si compiono reati, è una libertà individuale scambiare foto, mettere frasi, scrivere quello che uno vuole, purché non leda l'integrità e la rispettabilità di altre persone. E il conte furbetto si arrabbia proprio. Non la conosce, va benissimo. Non la conosco io. Allora, come vi permettete voi a sputtanarmi in questa maniera qua? No, ora non usiamo queste parole. Ma lei sta su internet, tutti quanti i nostri telespettatori l'hanno visto su internet. Voglio le scuse in pubblico. Allora, le scuse in pubblico voglio. Senta, sento un cavolo perché sono alterato io. Non posso guardare la televisione e guardare il mio profilo che c'è la gente che. Ho capito, ma ci si è messo lei su internet. Guardi, allora a questo punto quello chiedo a Andrea Rossetti, senza attualmente sostituirsi a chi poi magari avrà occasione, forse sì, forse no, di derimere questa questione. Il conte furbetto ha un margine di ragione. La televisione può trasmettere un profilo Facebook che rappresenta comunque l'esposizione, se vogliamo, del nostro privato, ma entro che limiti? Una volta noi mettiamo qualcosa in Facebook, lo regaliamo al mondo o dobbiamo comunque assicurarci che gli altri non varchino i limiti, non so, della visione in un monitor da parte di un'altra persona? No, questa è proprio la frontiera della privacy, no? La nuova frontiera della privacy, perché il fatto che io metta a disposizione dei dati non vuol dire che questi dati siano proprietà di tutti e se ne possa fare tutto l'uso che si vuole. Sintomatica, secondo me, è la frase che dice la giornalista a un certo punto, no? Ma sta su internet. Su internet ci stanno un sacco di robe che in realtà sono protette a diritto d'autore, tutelate in moltissime maniere. I nostri dati personali sono tra le cose che vengono tutelate. Quindi noi certo dobbiamo fare ovviamente attenzione alle cose che postiamo su internet per i motivi che ha detto anche l'ascoltatore prima, per carità, però quando mettiamo una cosa su internet noi manteniamo i diritti, una serie di diritti su questi dati. Questa è la cosa da ricordare sempre, è l'attenzione che dobbiamo porre sempre anche quando usiamo i dati di altri internet. Insomma, io non posso mettere una foto di un mio amico su internet senza avere il suo permesso. A maggior ragione non posso usare questa foto in un contesto in cui mette il mio amico in cattiva luce, perché è esattamente come andare su una piazza e parlare male pubblicamente di lui. Quindi se la televisione trasmette, perché accade spesso ultimamente per i fatti delle baby prostitute, è stato molto diffusa questa modalità, manda delle videate con pagine di social network che si vedono delle persone, può farlo? Sì, perché nel caso delle baby prostitute, ad esempio, c'erano delle persone indagate. Ovviamente quando scatta l'indagine è una cosa diversa, perché queste persone che vengono indicate in questi servizi sono probabilmente in qualche maniera attenzionate dalla polizia. E quindi lì ci sono esigenze che sono quelle della notizia, cioè riportare effettivamente che Pinco Pallino è stato davvero accusato o è inquisito. Quindi il diritto di cronaca qui prevale sulla privacy dell'individuo. Ma non è il caso della trasmissione di ieri, quello che mi sembra di capire, no? Perché questa persona in realtà non è in nessun modo sussunta a nessuna azione di tipo giudiziario o nessuna indagine, era semplicemente, o meglio, sussunta unicamente un'indagine giornalistica, che però non ha veramente, ovviamente, la perché mi scrive un ascoltatore, dice: se mi metto in una piazza pubblica, ad esempio su un social network, non posso pretendere la privacy. È vero, ma quali sono i limiti? Perché è importante, nell'ultimo minuto vorrei tu lo spiegassi. No, certo, allora è chiaro che io non posso pretendere la privacy, o meglio, non posso pretendere che le persone ad esempio vadano a vedere il mio profilo se è il mio profilo pubblico, questo è evidente. Però una cosa assai diversa è che il mio profilo venga preso e ad esempio utilizzato in un contesto completamente esterno, soprattutto per parlare male di me. Allora, che io vada nella pubblica piazza, è vero che io quando vado in piazza non posso pretendere di avere privacy, però posso pretendere che le persone ad esempio non mi picchino, non mi tirino pomodori o non parlino male di me. Queste cose sono cose si posso pretendere sia nella vita, nella piazza fisica, sia nella, in tipi di piazza virtuale, come sono ad esempio Facebook. Qui le leggi non cambiano, a me sembra anche abbastanza evidente peraltro. Grazie Andrea Ossetti, la sigla ci porta via, siamo partiti da selfie, autofotografarsi, abbiamo visto che comunque si possono fare tutte le foto di noi che vogliamo, ma l'uso che ne fanno gli altri è limitato alla nostra volontà. A domani.